Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E così, settimana dopo settimana, siamo arrivati alla settimana numero 49, all'ultimo giorno della settimana numero 49, all'ultimo giorno della stagione numero 13. Sono 13 le stagioni spese da Eclettica sulle frequenze di Rock FM. Giulio Caperdoni quindi sta per salutarvi, lasciarvi per qualche settimana e poi riprendere con la stagione numero 14, sempre nello stesso orario, 19:20, orario in cui però non verrete abbandonati. Infatti la musica di Eclettica rimarrà a tenervi compagnia già dal lunedì prossimo, solo che mancheranno le letture, mancheranno gli sprazzi cinematografici e mancherò ovviamente anche io. Allora, che ne dite? Cominciamo con l'ultima Eclettica della stagione? Dai! Cediamo la parola a Wu Ming. Bologna, Cinema Imperiale, 14 febbraio. Nemmeno un quarto d'ora dopo l'inizio del film, Pierre iniziò a proferire una lunga sfilza di commenti malevoli. Angela gli piantò un gomito nello stomaco, pregandolo di non farsi riconoscere, che erano lì, di nascosto da tutti. A dire il vero, in sala erano pochi gli spettatori che non sghignazzassero o rispondessero al film con battutacce in dialetto, anche tirandosi l'un l'altro lupini, regalizi e chiacchiere, tutto già masticato. Angela era imbarazzata. Pierre lo sapeva, ma era più forte di lui. Il film era terribile, noioso, stupido e anche reazionario. 2 ore buttate nel cesso, perché Brando si era preso l'influenza all'ultimo momento e non si poteva usare casa sua. Nessun altro posto dove fare l'amore e perché non andiamo al cinema? Aveva proposto Angela. Va bene, pur di farla contenta e pur di stare con lei. Poi, nel buio dell'imperiale ci si poteva baciare, toccare. Bastava sedersi dietro per evitare sguardi indiscreti e uscire prima di tutti gli altri. Però Angela aveva insistito per vedere Siamo Donne, proprio quello, perché le dicevano che un po' somigliava alla Lida Valli. Pierre si era chiesto dove l'avessero vista quella somiglianza. Angela era più bella, aveva gli occhi scuri e i capelli neri. Attrici che interpretavano se stesse nella vita di tutti i giorni. Donne ricche e sfondate che fingevano di rimpiangere la vita semplice e invidiavano i poveri. Pierre non riusciva a trattenersi. Ma sto Zavattini che ha scritto il film non era un compagno? Cos'è che vuol dire si stava meglio quando si stava peggio? All'inizio si vedeva una certa Anna litigare con la madre e andare a Cinecittà per un concorso che si chiamava 4 attrici, una speranza. Centinaia di ragazze da tutta Italia si contendevano 4 particine in un film importante, che guarda caso era proprio Siamo Donne. Si capiva bene che i registi volevano suscitare la compassione del pubblico. C'era una ragazza di Mantova di nome Emma. Era la prima volta che andava a Roma e su quel tasto si batteva un po' troppo. Le mancava il papà, non si era mai allontanata da casa così tanto, eccetera. Oi, neanche io ci sono mai stato a Roma. Quasi tutti quelli che conosco non sono stati a Roma. Adesso perché uno non è stato a Roma deve essere per forza uno sprovveduto? Fare compassione? Poi a Mantova non hanno mica quell'accento lì, te lo dico io. Questo era ancora 54 di Wu Ming. Thank you. when I buy my wife, mm-hmm. At the start she was cook good, her vagina work well, and she's strong on plow. But after 3 years, when she was 15, then she become weak, her voice become a deep Borat, Borat. She receive a hair on her chest, and her vagina hang like sleeve of wizard. Jeez. How do I know that this will not happen with the car? Chevrolet guarantees you that with a warranty. Let's leave work early, flee from the city, run to the suburbs and pack our bags. Let's fly to an island with no newspapers. We'll bring our swimsuits and swim all. I thank God for God the suntan lotion. I thank God for God the film for the camera. But it's okay, there's a store down the street where I can buy almost anything. Mi sembra il caso di ricordarvi l'indirizzo di mail, visto che per un breve periodo sparirò dalle frequenze di Rock FM, quindi se volete mantenere il contatto, giulio@radiorockfm.com. In ogni caso, anche su myspace.com/eclettica ho intenzione di mettere le informazioni aggiornate su quando la 14ª stagione riprenderà. Quest'oggi Eclettica si è aperta con le islandesi Amina, Sex Faldur, e poi abbiamo fatto un veloce salto negli Stati Uniti per ascoltare On Vacation da parte di The Robot Ate Me, per ritornare subito in Islanda per ascoltare un estratto da quello che è l'ultimo album dei Mum, ultimo album uscito per Fat Cat dal titolo Go Go Smear the Poison Ivy, dal quale quest'oggi estraggo il brano che è anche in giro come video, probabilmente avete avuto la possibilità di vederlo, e che si intitola They Made Frogs Smoke Till They Exploded. Thank you. materiálu napríklad dřev. Nikde nepovinná. Tra Napoli e Pompei, 21 febbraio. Zollo aveva altro da pensare, ma non ci riusciva. Impossibile quando Don Luciano decideva di essere ospitale, perché i suoi discorsi fluivano ininterrotti, una frase dietro l'altra, e finivano con l'avvolgerti la mente e ti ritrovavi a seguirli, che ti andasse o no. Il capo non parlava come i comuni mortali, solo in apparenza poteva sembrare un parlare per parlare. In realtà le parole erano soppesate, scelte, e mescolata alla chiacchiera c'era saggezza e una buona dose di savoir-faire. Monopolizzava il discorso senza risultare scortese, anzi, blandendo l'interlocutore, costringendolo con maestria a seguire il ragionamento. L'Italia è un paese ancora tutto da fare, my friends. Ogni tanto mi sembra di stare nel Far West, come un pioniere, sì. C'è tutto da costruire, grandi possibilità per i giovani che hanno teste e cugghioni. Io? Che volete, ormai sono un povero pensionato che se il pomeriggio non mi corico a fare un riposino, manco arrivo a sera. Ma chi ha sangue fresco? C'è da fare per tutti. A Napoli la gente è ospitale, adesso poi che ci stanno più americani che italiani, marinai, ufficiali, medici, giornalisti, pare di stare da noi. Gli italiani, my dear, non parlano le lingue, ma i napoletani sì, le parlano tutte. Conoscete la storia di questa città, no? Qui tutti passarono, francesi, spagnoli, piemontesi, tedeschi e adesso gli americani. I napoletani non sono abituati a stare da soli, sempre qualcuno in casa, sempre gente diversa, lingue diverse, facce nuove. E hanno un modo di fare, very funny, tutto per la strada, tutto in pubblico. Io faccio vita riservata, chi volete che venga a discutere con un vecchio, ma vedo tutto dalla mia poltrona. La metto sul terrazzo di casa e da lassù guardo la vita di Napoli che mi scorre sotto. È meglio du cinemascope. Lucky Luciano se ne stava sprofondato sul sedile posteriore della Plymouth decappottabile e parlava, sorrideva generoso alla ragazza seduta davanti che non riusciva a non voltarsi torcendo il collo per annuire ai discorsi del vecchio. Questo era ancora 54 di Wu Ming. We have our lives together and we want nothing more. Then we should die together down here upon the shore. My lips upon your neck and your legs around my chest, surrounded by everything that we love the best. So we don't have to falter and see it drawn so slight, 'cause I would run more proudly between your thighs tonight. I wanna be a shining example. I wanna be a shining example. I wanna be a shining. Ci siamo appena ascoltati Rock Plaza Central con How Shall I to Heaven Aspire, estratto dall'album Are We Not Horses, un album concept che gira tutto attorno ai cavalli, ma non i cavalli veri, sono dei cavalli meccanici che sono stati programmati per pensare, credere di essere dei cavalli reali. E non è un album concept quello che chiude la prima parte di Eclettica di quest'oggi, poi ci sarà anche la seconda a chiudere l'intera stagione, ma è un album che gira attorno ad uno stesso tema. È un album a nome Jesse Fortino, o meglio, nome Tiny Vipers, che è lo pseudonimo che ha deciso di adottare. Lei arriva da Seattle, come anche l'etichetta per cui incide, la Sub Pop. È uscita da un mese ormai con un album dal titolo Hands Across the Void. Sono canzoni semplicissime, chitarra acustica, voce e poco di più. E non è un album concept, come vi dicevo, ma è un album di storie. Un album di storie che raccontano di come le azioni che quotidianamente compiamo possano influenzare la nostra e le altre vite, molto più spesso di quanto immaginiamo. Tiny Vipers, On This Side. I feed ten. I'd stick with all that are stars. Can I say first, we support your war of terror. May we show our support to our boys in Iraq. May US and A kill every single terrorist. May George Bush drink the blood of every single man, woman, and child of Iraq. May you destroy their country so that for the next 1,000 years, not even a single lizard will survive in their deserts.